alla ricerca della felicità. C'è chi la cerca distante quando c'è la di fronte, c'è chi la trova lontana e gli dura il tempo di un brano, c'è chi la compra col contante, fa il felice ma mente, c'è chi la trova piano piano in una stretta di mano e nel sorriso di chi ringrazia e dice di sì alla vita che l'accoglie, anche se poco raccoglie, se soffre per le sue doglie. C'è chi la trova e l'accoglie e vola libero nell'alto, manco fosse un colibrì. C'è chi la sente da solo, solo perché egoista, c'è chi la mette in un'arte, chi la mette da parte, c'è chi la prova se parte, chi la trova in se stesso, chi nell'amplesso del sesso e chi nell'amore altruista. Chi la cerca nelle droghe sfugge dalla sua realtà, ma una vita che è ferita e che è travolta come John. Me ne frego delle regole, di quello che è il buon ton. Cerco con la dignità di avere più felicità. Né fama né successo danno la felicità, e tutto quello che io cerco sta nella semplicità. Voglio essere felice, voglio più serenità, voglio guardare la luce chiara come l'onestà. Né fama né successo danno la felicità, e tutto quello che io cerco sta nella semplicità. Voglio essere felice, voglio più serenità, voglio guardare la luce chiara come l'onestà. Dove la trovi e perché? Dove la cerchi non c'è. Quando ti senti triste, credi che non esiste. Dove la trovi e perché? Dove la cerchi non c'è. Quando ti senti triste, credi che non esiste. È un'insaziabile ricerca perché è sempre insoddisfatto, un'incurabile ricetta perché tutto è d'affetto, da mancanza di affetto e da finto rispetto. Chi la cerca nel denaro, avare e manca di tatto, c'è chi la trova dentro gli occhi di una donna che sposa, la ritrova nello sguardo di una figlia affettuosa. Chi la perde si avvilisce, capisce che era importante più del sole accecante o di un amante focosa. Chi la cerca nella chiesa e nelle immagini sacre, chi la trova nel liquore o nel sapore più acre, chi la trova in un abbraccio e chi la perde in un rinvio e vuole dare solo un calcio a questa vita e dirle addio. C'è chi la cerca con la gente più falsa, quella che vale meno di un buco sopra una calza, dalla quale non dipende, non voglio avere un consenso, dalla quale mi difendo e pretendo pure il compenso. C'è chi la cerca dentro vane illusioni e vive solo di sogni, mentre abbandona i bisogni per leggere tutti i segni, per non avere più impegni, per non pagare più impegni e profitta le sensazioni. C'è pure chi la cerca nell'abbraccio di un padre che non ha mai avuto perché ha lasciato la madre, e che non aiuto con le sue forze cresciuto, con un segreto taciuto, adesso abbraccia le strade. Né fama né successo danno la felicità, e tutto quello che io cerco sta nella semplicità. Voglio essere felice, voglio più serenità, voglio guardare la luce chiara come l'onestà. Né fama né successo danno la felicità, e tutto quello che io cerco sta nella semplicità. Voglio essere felice, voglio più serenità, voglio guardare la luce chiara come l'onestà. Dove la trovi e perché? Dove la cerchi non c'è. Quando ti senti triste, credi che non esiste. Dove la trovi e perché? Dove la cerchi non c'è. Quando ti senti triste, credi che non esiste. Né fama né successo danno la felicità, e tutto quello che io cerco sta nella semplicità. Voglio essere felice, voglio più serenità, voglio guardare la luce chiara come l'onestà. Né fama né successo danno la felicità, e tutto quello che io cerco sta nella semplicità. Voglio essere felice, voglio più serenità, voglio guardare la luce chiara come l'onestà. Dove